Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordo, il taglio sul polpastrello di una mano, quando la ferita si rimargina l'impronta digitale è la stessa, ritorna la stessa, allora no, sì, dipende, invece la risposta giusta era non cambia mai, se il taglio è superficiale, quando la pelle si ricostruisce scompare ogni segno e l'impronta ritorna esattamente come se nulla fosse, come prima. Qualora invece il taglio sia profondo, indipendentemente dalle direzioni, invece rimarrà una cicatrice, questo sì, sul polpastrello. Però questa, come dire, interromperà semplicemente le linee dell'impronta in una certa direzione e la configurazione resta sempre la stessa. In pratica, insomma, c'è una memoria del polpastrello, un'informazione che nulla può alterare.